闇飛ばせ猫死不なりせよさせれもしたい愛を出してみれたい Respondial grido no se solicita Se tu vuoi vivere allora sarà Un grande party Oh no, nessun verde della sia Nessuna spia del TNT Ci fermerà stanno attesa Yeah.